Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Napolitano alla cerimonia per i 150 anni dell'Unità d'Italia, qui una bella aria, altrove c'è la bolgia. Crisi, stiamo iniziando la risalita, dice Berlusconi presentando la Banca del Sud. Bersani, non con un governo inerte. Monito BCE, risanare i conti dal 2011. Pordenone, maestro licenziato perché parlava napoletano. Buona giornata dalla redazione da Anarita D'Ambrosio. In primo piano dunque all'Università di Tor Vergata a Roma per la cerimonia inaugurale delle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia. In diretta Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno, una battuta amara quella pronunciata dal capo dello Stato, evidentemente preoccupato per le tensioni politiche di questi giorni. Qui si respira una bella aria, altrove è la bolgia, ha detto Napolitano quando al termine della cerimonia gli è stato chiesto un commento sull'intervento di Giuliano Amato, che aveva parlato di turbolenze negli ultimi anni a piani alti, cioè di una contrapposizione crescente tra i poteri dello Stato, ma sentiamo la stessa voce del Presidente. È stata una splendida iniziativa ad alto livello culturale e civile, vorrei dire, e anche con una tale comunanza di accenti. C'era un ministro della Repubblica, c'era un esponente anche storico della politica italiana come Giuliano Amato, oltre che un maestro come il professor Talamo. Insomma, qui si è respirata una bella aria, altrove c'è la bolgia. Una dichiarazione che Napolitano ha reso a margine di una cerimonia che si è conclusa con un concerto in suo onore diretto da Ennio Morricone, cerimonia alla quale hanno partecipato anche il ministro degli esteri Frattini e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Letta. Napolitano ha fatto capire espressamente al suo staff di voler incontrare i giornalisti dopo la conclusione, segno che davvero ci teneva a comunicare questa sua preoccupazione in un momento così delicato per la vita politica italiana. Poi però non ha voluto rispondere ad altre domande e si è allontanato. E da Tor Vergata è tutto, a voi. Grazie Alessandra. Invece Berlusconi questa mattina ha parlato di crisi economica alla conferenza stampa di presentazione della Banca del Sud con Tremonti. In diretta Chiara Di Michele. Chiara. Sì, buongiorno. Secondo il Presidente del Consiglio la crisi è alle spalle, è iniziata la risalita, ma è lenta. Sentiamo Berlusconi. Dopo essere usciti da un momento di forte crisi, stiamo oggi iniziando una risalita che non sarà veloce, che non sarà fatta di grandi numeri, ma che certamente risalita è. Stiamo risalendo meglio di altri Stati europei, abbiamo condotto fin qui una politica severa sui conti pubblici che sono sotto controllo. Quando il governo ha cercato di diffondere fiducia e ottimismo non aveva gli occhi chiusi di fronte alla gravità della crisi, spiega il Premier, ma era consapevole che il fattore principale era psicologico. Ora ci sono segnali di ottimismo, dobbiamo cavalcarli, esorta Berlusconi, che per il rilancio del Mezzogiorno individua due pilastri, l'accesso al credito e la difesa della legalità. Secondo il Premier, il Sud, grazie all'azione svolta dal governo, oggi comincia a sentire lo Stato vicino, ma deve sentire vicino anche il mondo del credito, soprattutto per le piccole e medie imprese. In questo quadro la Banca del Sud sarà un forte mezzo di supporto all'imprenditorialità, soprattutto giovanile, assicura Berlusconi, garantendo che il nuovo istituto non sarà un carrozzone pubblico, non sta in piedi con i soldi dei contribuenti. La Banca del Mezzogiorno è una cosa seria, incalza Tremonti, che d'accordo con il Premier sottolinea. Tante volte ho sentito dire sarà un carrozzone pubblico, è impossibile che lo sia perché non è pubblico, non sarà un carrozzone e non sarà pubblico. Il vero ruolo dello Stato è stato dare l'idea e dare il supporto. Tutto il resto lo fa i privati. Da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Chiara. E alle parole di Berlusconi ha replicato poco fa Bersani. Continua dunque il botta e risposta tra i due. Sempre in diretta da Roma, Elisabetta Fiorito. Sì, proprio così, intervento del capo dell'opposizione Pierluigi Bersani sull'economia. L'Italia e gli italiani ce la faranno, ma non con un governo che sta con le mani in mano. Lo scorso anno il PIL è sceso di 5 punti, un record di caduta. Per recuperare dobbiamo correre. Intanto Partito Democratico e Italia dei Valori preparano una manifestazione di sabato prossimo. Bersani esclude contrasti con Antonio Di Pietro. Abbiamo una piattaforma secondo la quale il governo ha la piena responsabilità del decreto sulle liste. È un punto indiscutibile e tutti tutti la rispetteranno. Per Bersani quindi non ci saranno attacchi al Quirinale. Vado alla manifestazione, dice Bersani, con grandissima tranquillità e parlerò dal palco di Piazza del Popolo a Roma. Per Di Pietro, quella di sabato sarà la piazza della riscossa, alla quale l'IDV chiama gli italiani a dire basta al governo Berlusconi. Nella maggioranza invece il premier Silvio Berlusconi sarebbe preoccupato del calo dei consensi di 4 punti a seguito del caos nelle liste e oggi pomeriggio dovrebbe partecipare alla riunione dei dirigenti PDL di Roma e provincia. E per il momento qui da Roma è tutto, voi studio. Grazie Elisabetta, e noi adesso parliamo di giustizia, che è un altro tema caldo alla luce della pronuncia del CSM di ieri, ma soprattutto dell'ok al legittimo impedimento. Quali conseguenze avrà l'approvazione del legittimo impedimento sui processi e soprattutto su quelli del premier? Lo chiediamo in diretta ad una nostra ospite gradita, Donatella Stasio del Sole 24 Ore. Buona giornata. Buongiorno, buongiorno a tutti. Donatella, allora, tante polemiche politiche sull'approvazione di questo provvedimento con l'UDC che prima aveva detto meglio questo del processo breve, poi alla fine ieri in aula ha comunque votato no. Quali sono le conseguenze concrete adesso? Le conseguenze concrete si dovrebbero vedere, ma il condizionale d'obbligo fin dal 26 di marzo, perché il 26 di marzo è fissata l'udienza nel processo Mills in cui il Presidente del Consiglio è imputato di corruzione giudiziaria. Se per quella data il provvedimento sarà stato promulgato dal Capo dello Stato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è molto probabile, non è detto che avvenga, che comunque i difensori del Premier lo utilizzino in quell'udienza e quindi chiedano un rinvio per legittimo impedimento sulla base appunto dei requisiti previsti dal provvedimento, e lì si vedrà se appunto la procura, come sembra dalle prime indiscrezioni, solleverà immediatamente la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte, oppure si aspetterà un'altra occasione per farlo. Donatella, riguarda solo il Premier e i ministri? Sì, il provvedimento riguarda solo il Premier e i ministri, perché i sottosegretari che erano stati inseriti durante l'iter alla Camera sono stati esclusi. E comunque già questa estensione ai ministri rappresenta, diciamo, un ulteriore elemento critico di questo provvedimento, perché la sospensione di fatto è una sospensione, anche se tecnicamente è un rinvio, di sei mesi fino a un massimo di 18, riguarderà anche loro e non soltanto il Presidente del Consiglio. Proprio questa, diciamo, sospensione pressoché automatica per un periodo massimo di 18 mesi è forse l'aspetto più delicato di questo provvedimento, che appunto rischia di farlo cadere per incostituzionalità. Staremo a vedere, grazie a Donatella Stasio per essere stata con noi. E un altro tema è l'informazione. Sbavagliamoci, è lo slogan scelto da associazioni ed esponenti dell'opposizione per protestare oggi davanti alla RAI di Viale Mazzini contro lo stop ai talk show. Occhi puntati sul TAR del Lazio, la terza sezione del Tribunale Amministrativo discute oggi infatti in Camera di Consiglio i ricorsi che sono stati presentati da Sky e Telecom Italia Media contro il regolamento varato dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni. E noi torniamo ai temi economici, parliamo di conti pubblici, del nuovo monito della BCE. La Banca Centrale Europea è molto preoccupata per l'andamento delle finanze pubbliche nella zona euro, al di là del caso greco. Nel suo bollettino mensile pubblicato oggi fa notare che risanare i bilanci passa necessariamente per una riforma della spesa pubblica in tutti i paesi. Nel contempo ricorda che deficit elevati rappresentano un freno alla ripresa, perché comportano un aumento del costo per il servizio del debito. In questo contesto la BCE sprona i paesi dell'Unione Monetaria ad iniziare il risanamento dei bilanci entro il 2011. D'altro canto la situazione economica sta migliorando, la ripresa è in atto anche se è altalenante e ancora incerta. Per ora la Banca Centrale non intende aumentare il costo del denaro, oggi all'1%, ma ha annunciato nei giorni scorsi nuove misure per ridurre progressivamente l'abbondante liquidità immessa sui mercati all'apice della crisi, tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009. Beda Romano, GR24, Il Sole 24 Ore, Francoforte. Ed il tabloid tedesco Bild lancia un duro attacco a Mario Draghi, sostenendo che la presidenza della Banca Centrale Europea dovrebbe andare all'attuale numero uno della Bundesbank, Alex Weber, e non al governatore della Banca d'Italia. Mario Draghi vuole diventare Mister Euro, esordisce il giornale più letto della Germania. Un'altra giornata di sciopero nazionale intanto in Grecia contro il piano di austerità varato dal governo. Lo sciopero convocato dalle due maggiori confederazioni sindacali del paese è il secondo in una settimana. In Italia sciopero invece domani, disagi nei trasporti, pubblico impiego e scuola. Un sciopero generale sul lavoro, fisco e cittadinanza promosso dalla CGIL. E sul fronte meteo l'Italia rimane nella morsa del maltempo. La Protezione Civile ha emesso per le prossime ore un nuovo allerta. Dopo 24 ore di pausa è tornata la neve anche sulle autostrade dell'Abruzzo, rimaste bloccate la notte tra martedì e mercoledì. Se è tornata la neve, questa volta l'esperienza è servita, così per scongiurare un'emergenza simile a quella della notte tra martedì e mercoledì con centinaia di mezzi coinvolti, è stato chiuso per una ventina di minuti l'accesso alle carreggiate dei caselli dell'Aquila. Molti aquilani credono che questo sia merito del forte intervento del prefetto dell'Aquila Gabrielli, che ieri è intervenuto ravvedendo ipotesi di negligenza e imperizia nell'emergenza neve sulla A24 e A25. È mancata, tra martedì e mercoledì, secondo il prefetto, una comunicazione tempestiva ed efficace. Intanto, i cittadini che rimasero bloccati sul tratto autostradale stanno consociandosi per fare causa alle autostrade. La differenza con la quale è stata gestita questa mattina l'emergenza neve sullo stesso tratto autostradale è stata salutata con soddisfazione dal prefetto dell'Aquila. Cristina Carpinelli, GR24, Il Sole 24 ore. Adesso l'emergenza più importante riguarda il sud, dove le violente piogge stanno causando frane e crolli. Domani la giunta di Messina chiederà lo stato di calamità. A Messina sono 11 le famiglie rimaste senza casa. L'ondata di gelo ha dato forza agli scettici che credono che il riscaldamento globale sia una mera invenzione. Cristina Carpinelli ha chiesto a Giampiero Maracchi, presidente del CNR, una valutazione sulla situazione attuale. Il fatto che quest'anno sia un anno freddo, insomma, ci sono questi fenomeni, non ha nulla a che vedere né in un senso né nell'altro con i cambiamenti climatici, perché questo è un anno che ogni 20-25 anni si verifica. E poi, professore, c'è un dato che dovrebbe far riflettere, la potenza della pioggia. L'intensità della pioggia è ormai un fenomeno che a causa della maggior quantità di energia sugli oceani è un fenomeno sempre più. La confusione a volte fanno mezzi di informazione, fa freddo, allora non c'è più ambiente. È una stupidaggine, oltre che essere una cosa scorretta. Naturalmente il sud, certe aree del sud, come la Calabria, per esempio, a questi fenomeni si somma obiettivamente anche la cattiva gestione del territorio, quindi come l'uomo ha gestito il territorio, e quindi i danni sono ancora maggiori di quelli che potrebbero essere. Il graffio di Dario Ceccarelli. Dopo la batosta del Milan, Berlusconi contrattacca. C'è una campagna di disinformazione. Anche a Manchester i radicali e i giudici ci hanno impedito di giocare. Sincerità, un elemento imprescindibile per una relazione stabile all'eternità. Le 13:18, ancora una buona giornata dalla redazione da Anna Rita D'Ambrosio. Nella prima parte del nostro GR abbiamo parlato di Napolitano, che è stato oggi alla cerimonia per i 150 anni dell'Unità d'Italia a Tor Vergata a Roma. Qui una bella aria, ha detto il capo dello Stato, altrove c'è la bolgia. Berlusconi invece, presentando la Banca del Sud con Tremonti, ha parlato di crisi economica, stiamo iniziando la risalita, ha detto il Premier. Ha risposto a Stretto Giro Bersani: sì, l'Italia ce la può fare, ma non con un governo inerte. E intanto è arrivato da Francoforte il monito della BCE nel consueto bollettino mensile: bisogna risanare i conti dal 2011. E adesso, come detto, per la cronaca andiamo a Pordenone per una storia che arriva dal secondo circolo didattico della città. Sì, silurato con pregiudizio, dicono i colleghi, che tradotto significa licenziato perché in aula ha parlato in dialetto napoletano. È successo a Pordenone in una scuola elementare. Il maestro, un quarantenne campano, pare si rivolgesse agli scolaretti infarcendo le frasi con qualche intercalare dialettale del tipo «assetto, te picci». E questo è bastato a sollevarlo dall'incarico. Stando ai racconti dei genitori, i bambini tornavano da scuola dicendo che il maestro parlava una lingua strana, diversa dalla loro, e il caso è esploso. Una brava persona che ha subito un pregiudizio grave, dicono di lui i colleghi, solo che qualche volta effettivamente parlava napoletano. E questo, a quanto pare, a Pordenone è suonato come un grave vulnus. Se poi ci si aggiunge che dalle ispezioni disposte dall'ufficio scolastico sono risultati errori linguistici e grammaticali nei quaderni con gli esercizi dei bambini, il gioco è fatto. Silva Menetto, GR24, Il Sole 24 Ore, Pordenone. Ancora a scuola, ma rovescio della medaglia a Milano per una notizia positiva. Come saprete, si chiudono i battenti della scuola il 26 marzo per le elezioni regionali e si riapre il 12 aprile dopo le vacanze di Pasqua. Molti genitori sono disperati, chi non ha nonni e babysitter ma deve comunque andare al lavoro non sa a chi affidare i figli. Qualche scuola però comincia a muoversi. A Milano, scuola aperta per esempio tutti i giorni con lo stesso orario dei giorni normali alla primaria Cadorna. Una cooperativa pagata dalla scuola e con un contributo delle famiglie di soli 12 euro al giorno consente di tenere aperto l'istituto. Il preside Giovanni Del Bene al microfono di Maria Piera Ceci. Dal 28 al 10 ci sembrava un periodo estremamente lungo e scandaloso nei confronti della popolazione che lavora e che ha dei bambini piccolissimi da gestire. Questo è un problema che abbiamo cercato di risolvere. Poi l'altro problema è strettamente legato al creare proprio sul territorio la scuola intesa come luogo di sinergia sociale e di vera cultura. La vera cultura vuol dire lo scambio, no? Secondo noi l'integrazione, avendo anche alcuni bambini stranieri, avviene proprio dandosi una mano, proprio il termine giusto è proprio quello di darsi una mano. Quindi insomma, per venire incontro alle esigenze della famiglia, ma anche per creare un'idea di scuola aperta, ecco, aperta anche alla popolazione. Quando lo Stato dice che è chiusa, aperta quando lo Stato dice che è aperta, ma aperta quando la popolazione ne ha bisogno. No, per dimostrare che con pochi soldi una famiglia con, per dire, 10 euro al mese riesce ad avere una scuola di altissimo livello, certamente molto superiore ad una scuola privata, perché sono bambini che in genere invece starebbero nelle giornate di vacanza con i genitori che lavorano, a quelli che va bene in casa con una babysitter, a quelli che va male in casa da soli o con qualche amico che si cura di loro. Insomma. Magari di fronte alla TV. Sempre di fronte alla TV. Scuola al centro anche del nostro sondaggio. Vi abbiamo chiesto, arriva il primo distributore di preservativi a scuola, una scelta che condividete? La sperimentazione non partirà domani, ma tra qualche giorno. Solo qualche intoppo tecnico, giurano al liceo Keplero di Roma, dove tutto è pronto per installare il primo distributore di preservativi. Iniziativa appoggiata dalla gran parte di studenti e professori e criticata dal Vaticano e da chi accusa così di voler banalizzare l'approccio alla sessualità dei ragazzi. Vi abbiamo oggi interrogato su questo tema. Il 71% di voi appoggia l'iniziativa della scuola romana. Il professore di biologia del Keplero, Roberto Casalini, spiega. Per quanto noi possiamo educare a una sessualità consapevole, i ragazzi hanno questi rapporti prematrimoniali. È un dato di fatto di una società del XXI secolo. Il problema è preservarli. Bianco o Nero torna domattina alle 8.30 per votare radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. Dall'estero, Israele e Stati Uniti mantengono relazioni uniche nel loro genere. Tale legame non può essere rotto, quali che siano le sfide da affrontare. Lo ha garantito il vicepresidente degli Stati Uniti Joe Biden in un discorso tenuto di fronte agli studenti dell'Università di Tel Aviv. Ci spostiamo in Cile per il cambio della guardia al vertice del paese. Michelle Bachelet se ne va, largo a Sebastián Piñera. Alla Moneda oggi si avvicendano i due presidenti unici della storia cilena, la prima donna e il primo esponente della destra eletto alla presidenza da 50 anni a questa parte. Secondo gli ultimi sondaggi, la Bachelet lascia con un tasso di approvazione record, l'84%, nonostante le critiche per l'incertezza con cui il governo ha affrontato il doposisma. Piñera, invece, entra con la fiducia del 59% dei cittadini, una percentuale che sale al 63% se si parla di ricostruzione. Esta es la última vez. Rimpiango l'incompleta riforma dell'assistenza sanitaria pubblica, ammette la Bachelet, ma lascia un paese politicamente e socialmente stabile. Vamos a enfrentar y superar esta catástrofe. Piñera, prima del sisma, prometteva di fare del Cile il primo paese della regione a uscire dalla povertà. Ora punta tutto sulla ricostruzione in tempi brevi e annuncia già per oggi un progetto di legge per affrontare la situazione. Laura Bettini, GR24 e Sole 24 Ore. Il delitto di Via Pom, nel pomeriggio a Taranto i funerali di Pietrino Vanacore, si indaga per istigazione al suicidio. Il criminologo Francesco Bruno sospetta però che si sia trattato di un omicidio, lo ha intervistato Katia Caramelli. È molto della messa in scena, adesso c'è anche il risultato, almeno il primo risultato dell'autopsia, che dimostra come Vanacore sia affogato. E tutti possono constatare che è affogato nel classico bicchiere d'acqua. E io mi domando come questo sia possibile. Non si affoga in una vasca da bagno, a meno che non ci si cade dopo aver perduto i sensi, insomma, in qualche modo. Io continuo ad avere dubbi molto forti sul fatto che ci sia un suicidio, tra le probabilità più possibili, ritengo che ci sia la possibilità di un omicidio. Se c'è un omicidio è evidente, direi, al di là di ogni ragionevole dubbio, che chi avesse interesse a uccidere è l'assassino di Via Poma, un assassino che per me rimane ancora sconosciuto, perché l'attuale imputato non lo giudico tale, non ritengo che gli elementi di cui si dispone siano tali da rendere probabile il fatto che sia lui l'assassino. Calcio, non solo il KO del Milan a far clamore in Champions, anche l'eliminazione del Real Madrid dopo l'1-1 in casa con il Lione. Dalle parti del Bernabeu la resa dei conti è già cominciata, perché il gol del bosniaco del Lione Pjanic non ha mandato solo in frantumi il sogno dei bianchi di giocarsi la Champions proprio nello stadio di casa, il 22 maggio, e non ha bruciato solo una campagna acquisti da 254 milioni di euro per arruolare Cristiano Ronaldo, Kakà e Benzema. A saltare sono soprattutto i fragili equilibri dello spogliatoio delle merengues. Il progetto del Real Madrid ha molto più di una persona, non è un progetto di un anno. Il progetto del Real va oltre la mia persona e dura più di un anno, si affretta a dire Manuel Pellegrini, il tecnico che il presidentissimo Perez ha messo alla guida dei suoi neogalacticos. Ma la panchina del cileno, che ha relegato tra le riserve il mito Raul e sostituito nel momento chiave della sfida coi francesi, Kakà, è sempre più traballante. Tiene contratto in vigor Pellegrini. A fine temporada sarà il balance. I bilanci li faremo a fine anno, spiega il direttore generale del Real, Jorge Valdano. I bianchi sono in corsa nella Liga coi rivali del Barcellona. Ma da Twitter arrivano le parole della moglie di Kakà, Caroline. Pellegrini è un codardo che usa Riccardo per nascondere la sua incompetenza. Freccia avvelenata che già suona come un verdetto senza appello. Dario Ricci, GR24, Il Sole 24 Ore. Stasera in campo la Juventus di Zaccheroni, che alle 21 ospita a Torino gli inglesi del Fulham nell'andata degli ottavi di Europa League, il bomber bianconero Trezeguet. La partita vinta a Firenze ci ha dato una carica in più, sia per il campionato sia per questa Coppa, perché vogliamo andare avanti. Ci teniamo a fare bene, andando avanti in questa competizione sia e andando avanti anche in campionato. Stiamo lavorando molto bene, abbiamo capito benissimo quello che vuole il mister e siamo sulla strada giusta. È tutto per questa edizione, grazie regia Pietro Lacorte. Adesso c'è Italia in controluce, il GR torna alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.